a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Nuova puntata di A Regola d'Arte, un saluto da Francesco Galante. Lo sapete, ogni settimana ci ritroviamo per raccontarvi un po' di cose che riguardano l'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Con noi oggi al telefono il presidente provinciale Roberto Boschetto, benvenuto. Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, oggi parliamo di un progetto importante che avete voluto e state realizzando in partenza in questi giorni, che si chiama Abitare di Qualità. Sì, questo tema è un tema che caratterizza moltissimo quello che è tutto il settore dell'edilizia. Sì. Noi sappiamo benissimo che purtroppo dal 2008 è iniziato un periodo di crisi generale, ma che ha colpito principalmente l'edilizia. Questa crisi ha rivoluzionato un po' tutto questo mondo qua e quindi ha fatto sì che da un lato abbiamo avuto un po' il blocco di tutto il sistema casa e dall'altro lato però la nostra associazione si è interrogata su cosa fare per sbloccare questa situazione, perché non è sufficiente dire c'è la crisi, non ci sono i soldi, aspettiamo che arrivi che qualcosa. Che passi. Dobbiamo noi stessi muoverci e ragionare su quello che sarà il futuro abitativo. Ecco che da queste inizio di riflessioni come associazione, quindi all'interno della nostra associazione, la categoria di tutto il sistema casa, da un'analisi fatta assieme anche, ci siamo fatti aiutare da degli esperti, abbiamo valutato in modo approfondito quello che è l'abitare. Penso che il concetto anche un po' culturale dell'abitare sia cambiato. Oggi abbiamo le giovani coppie che cercano, nonostante la crisi, di acquistarsi un appartamento e che quello sarà l'appartamento della loro vita, perché quello che rimane in tasca è sempre meno. Ma così pure anche gli altri dicono, beh, mi sistemo la casa. Ecco che un po' su questi due concetti noi abbiamo cercato di focalizzarci dicendo, bene, quello che è il sistema casa, il nuovo come sarà e come sarà l'edilizia esistente. Da questo è un po' nato quello che può essere principalmente anche dalle statistiche date dall'Istat poco tempo fa, dove davano che il 50% dell'edilizia attuale ha più di 40 anni. Sì. Ecco che quindi a 40 anni senz'altro anche l'edilizia ha bisogno di essere rivista, di essere manutentata. Ecco che quindi che questa rigenerazione urbana, come l'abbiamo definita, ci permette di sviluppare e di cercare di farci aiutare per sviluppare maggiormente quello che è questo settore e quindi cercare lavoro alla fine. Per far questo ci siamo fatti aiutare innanzitutto da un centro di ricerca che è lo studio LAN. Sì. Il quale ha cercato di valutare e quindi di informarsi per darci delle notizie a noi su quali sono i bisogni effettivi dei cittadini oggi, che sono diversi moltissimo da quelli che erano, non so, i nostri genitori. E quindi ha fatto tutto uno studio, una ricerca che ci ha permesso di dare dei dati e vedere che effettivamente, come dicevo anche poc'anzi, i cittadini hanno bisogno di qualità. Senza ombra di dubbio, che uno abbia pochi soldi o ne abbia tanti, vuole qualcosa che sia di qualità. Oltre a loro abbiamo stretto una partnership con lo IUAV, che è l'Istituto Universitario Architettura di Venezia. Questo perché anche loro sono attori primari nel settore dell'edilizia, da lì escono professionisti che sono i primi ad avere l'impatto con l'edilizia e quindi ecco che anche attraverso di loro abbiamo elaborato e studiato alcuni punti fondamentali, che sono la qualità urbana e abitativa, che quindi si trasforma in riqualificazione dell'edilizia esistente. Poi c'è tutto il grande settore del risparmio ed efficientamento energetico, altro settore importante che riguarda tutti i nostri impiantisti. E poi abbiamo quello che è un po' l'economia circolare che da questo nasce, quindi mettere insieme energia, finanza ed innovazione. Ecco, un po' tutte queste cose qua le stanno, e le hanno in parte già elaborate, ma stanno continuando alcuni studenti e alcuni docenti. Ecco che noi quindi vorremmo in un incontro qua prossimo, che è appunto l'11 di ottobre, martedì prossimo, alle ore 18, presso l'Hotel Galileo, si terrà il primo workshop dal titolo Il benessere abitativo nella città futura, dedicato proprio al tema della rigenerazione urbana e della riqualificazione energetica. Questo sarà un primo workshop, ma senz'altro la voglia nostra qual è? Mettere insieme tutti gli attori che ruotano attorno al sistema casa, quindi imprese, professionisti, amministratori di condomini, tecnici, tutti insieme per vedere come muovere questo settore che è stato la fortuna per un grande periodo della vita dei nostri genitori, ma che senz'altro è importante per la qualità della vita, insomma, anche dei giovani e di noi stessi, insomma. Certo, quindi l'informazione è importante, perché se uno è informato poi... un'informazione qualificata, vogliamo dare una qualificazione importante e precisa, e dall'altro lato stiamo anche cercando di informare e formare i nostri artigiani, quindi noi stessi, per quello che è la qualità della vita e quindi delle abitazioni. Perché dopo, alla fine, siamo noi coloro che vanno a fare l'applicazione di nuove tecnologie, quindi di nuovi materiali, e quindi siamo coloro che da un lato dialogano con i tecnici, con i professionisti, ma dall'altro lato spesso dialogano anche direttamente con il cliente, per cui anche la capacità dell'artigiano di promuovere e di formarsi questa cultura nuova dell'abitare penso che sia essenziale. Per cui, ecco, abbiamo cercato di mettere insieme tutte queste cose per muovere questo settore che è stato trainante per tanti anni, ma che purtroppo è ancora fermo, insomma, nonostante ci sia qualche articolo sul giornale di qualche giorno fa che dica ma si sta muovendo un po' la vendita delle case. Delle case, sì, è una notizia. Delle abitazioni, che... quindi questo per carità è vero, però noi ci stiamo accorgendo che nel momento in cui acquistano case, le vogliono dopo adattare e qualificare. Oggi, insomma, anche il giovane che ha pochi soldi dice aspetto un anno e cerco di avere una casa, come dicevo anche prima, una casa che sia valida, costruita bene, perché questa sarà la casa della mia vita. E ricordiamo, 20 anni fa uno cambiava casa, ogni 10 anni cambiava casa. Adesso questo lo vedo molto lontano, quindi è un futuro, sarà un futuro non so quando. Ecco che questo fa pensare a tutti, bene, cambio casa o mi acquisto la casa o mi sistemo casa, perché faccio un lavoro, ma deve essere un lavoro che dura nel tempo, insomma. Ascoltiamo una canzone e poi torniamo a parlare con il presidente provinciale del Lupa, Roberto Boschetto. I remember dancing in the pouring rain, calling you up just to say your name. We felt like lovers, we felt like lovers, reaching for your hand when you pulled away. Every time I'd leave, you begged me to stay. We felt like lovers, living life undercover. Sail through love and war, we'd fight for everything and more, to save the night was all we saw, that's what the darkness is for, look at the time and the time that it's taken, is this love like the love we were making? We fight. Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Ancora insieme con A Regola d'Arte, questa nostra trasmissione sul mondo dell'UPA, dell'Unione Provinciale Artigiani. Con noi oggi al telefono il presidente provinciale Roberto Boschetto. Abbiamo parlato di questo bel progetto Abitare di Qualità. Abbiamo già anticipato che c'è un primo workshop interessantissimo che sarà martedì 11 ottobre alle 18. Si comincia presso l'Hotel Galileo, che è in via Venezia, zona Stanga di Padova. Questo workshop si intitola Il benessere abitativo nella città futura. Allora, raccontiamo chi può parteciparvi e quali sono i punti che andrete a toccare in questo workshop. Sì, beh, io aspetto tutti, perché l'incontro è rivolto un po' a tutti. È vero che sarà un incontro tecnico informativo, però io penso che sia importante da ambo i lati, sia da quelli, dalle persone, dagli attori di quello che è specifico legato al settore, ma anche da chi usufruisce delle case, insomma. E quindi ci tengo infatti a sottolineare e a ricordare ancora martedì 11 ottobre ore 18 presso l'Hotel Galileo. Questo incontro su cosa è dedicato? È dedicato a domanda e mercati, quali periferie e come affrontarli, edilizia e servizi connessi, un'offerta integrata per il territorio, legno e serramenti, il consumatore ne ha capiti veramente i pregi e i difetti? Ecco, queste sono tre prime domande, dove attorno a queste cercheremo di dare delle risposte qualificate, delle risposte importanti, e perché no, insomma, stuzzicare e incuriosire chiunque affinché si possa muovere questo settore importante, come dicevo prima, insomma, ecco. Dopodiché in programma ce ne sono degli altri che li stiamo, insomma, in base adesso anche a come andrà questo primo, ne promuoveremo degli altri altrettanto importanti. Altra cosa che volevo ricordare, perché è giusto anche che questi incontri hanno un contributo da parte dell'EBAV, che è un ente regionale che appunto promuove incontri tecnici legati al nostro mondo degli artigiani, insomma. Ecco. Per cui, insomma, c'è un loro contributo, insomma, affinché questo venga svolto anche in modo corretto e professionale. L'EBAV è un ente bilaterale Artigianato Veneto. Allora, per partecipare al workshop dell'11 ottobre, ripeto, l'Hotel Galileo di Padova, dalle 18, è necessario anche effettuare un'iscrizione, quindi per le informazioni conviene chiedere l'UMI all'Unione Provinciale Artigiani di Padova, Ufficio Promozione e Sviluppo d'Impresa. Grazie quindi al presidente provinciale dell'UPA di Padova, che è stato con noi, Roberto Boschetto. Grazie per averci illustrato questa bella iniziativa di Abitare di Qualità. Grazie a tutti voi e buona giornata. Siamo quasi in chiusura dell'appuntamento di A Regola d'Arte. Come stiamo facendo da qualche settimana, adesso vi segnalo un servizio dell'UPA Padova. Per l'ambiente e la sicurezza della tua impresa c'è proprio l'ufficio Ambiente e Sicurezza, che offre questi servizi: sopralluogo gratuito in materia di sicurezza. Un tecnico effettua in azienda l'analisi dei documenti presenti e redige una checklist da cui seguirà o un preventivo dei documenti effettivamente necessari in relazione ai propri rischi o un servizio di assistenza continuativa. È poi prevista l'assistenza in caso di ispezioni e visite da parte degli enti di vigilanza. Ottenimento dell'ex certificato prevenzione incendi. Riduzione del tasso INAIL. Marcatura CE macchine e impianti, marcatura CE prodotto, certificazioni ISO 9001 e altre, sistema di gestione sicurezza SGS secondo le linee guida dell'INAIL, elaborazione POS e PIMUS. Per quanto riguarda la medicina del lavoro, c'è BioLab per le visite mediche dei dipendenti, soci, lavoratori, CPM per la verifica della messa a terra, SCAB, analisi chimiche per emissioni in atmosfera, con la domanda di autorizzazione alle emissioni, analisi dei rifiuti per l'ottenimento del codice CER, amianto. Altri servizi per la redazione della HACCP, del contratto di assistenza Net Ambiente, tenuta e o aggiornamento del registro di carico e scarico da parte dell'associazione. Redazione del modello unico di dichiarazione ambientale, il MUD. Per informazioni, Ufficio Ambiente e Sicurezza dell'UPA 049 8206 516. Vi ricordo infine il sito dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova www.upa.padova.it. Alla prossima settimana per un'altra puntata di A Regola d'Arte. Un saluto da Francesco Galante. Avete ascoltato? A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.